Buonasera Antonella Bundu, ai microfoni di Radio Wombat. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Allora, questi mesi convulsi, l'attività del comune, i consigli comunali sono venuti un po' a singhiozzi. Abbiamo letto un post pubblicato da te su Facebook, si parla di tante cose, tra le quali uno stato di democrazia sospesa. Intanto se ci vuoi spiegare un po' il contesto nel quale si sta portando avanti l'amministrazione della città di Firenze, almeno velocemente, ecco. Certo, in poche parole, questo, quando parlavo della democrazia sospesa è perché tutti gli strumenti che abbiamo normalmente per riuscire a portare la nostra voce all'interno proprio del Consiglio, delle commissioni, a far registrare atti, a vedere a come si portano avanti le nostre battaglie, sono state sospese in qualche modo. Per questa emergenza coronavirus, dunque ci dicono che possiamo, a livello nazionale, però poi ogni comune lo coniuga e lo interpreta come crede, e qui a Firenze abbiamo fatto solo 3 consigli comunali, il terzo era ieri, da quando è partita l'emergenza, da quando c'è stato il lockdown, non abbiamo le. Abbiamo solo sporadicamente le commissioni consiliari, infatti ora poco fa ero in una commissione congiunta dove si riuniscono 3 commissioni, quella di oggi era per parlare per l'estensione, per la proroga del regolamento UNESCO, e non riusciamo a convocare commissioni per parlare di quello che non viene definito, e quello anche è a libera interpretazione, no? Urgente e indifferibile. Dunque nella scorsa commissione abbiamo votato un atto per dare un riconoscimento alle persone che stanno combattendo in prima linea, diciamo, contro questo virus, che viene considerato urgente e indifferibile, che anche se noi siamo chiaramente per rendere omaggio a chi sta lavorando in prima linea, ma pensiamo che ci possano anche essere degli altri atti da portare in discussione. E invece, dunque, questo ci viene un po' negato. Viene detto ma non solo a noi come forza di sinistra, ma in generale, solo che diciamo che a noi non va molto giù, non sta molto bene, e soprattutto perché la risposta che viene data è quella che bisogna tutti essere responsabili. Anche lì dici chi è che decide che cosa è responsabilità o meno? Dunque, a che cosa? Se dobbiamo pensare solo alle imprese, dobbiamo pensare anche ai lavoratori, alle lavoratrici, dobbiamo pensare a che cosa dobbiamo pensare, che cos'è indispensabile, che cos'è urgente per tutti. Dunque, questa libera interpretazione fa sì che non riusciamo in fondo non solo a riunirci, ma anche proprio a presentare degli atti che vengono in questo momento, vengono calendarizzati, e noi sappiamo, per esempio, ora faccio un esempio, i decreti di sicurezza. Per l'abrogazione, che è un atto che abbiamo preparato a luglio dell'anno scorso, è stato poi portato in commissione l'autunno scorso, ancora non siamo riusciti a portarlo in consiglio. Dunque stiamo andando, normalmente si va a rilento, in questo periodo poi calendarizzare vuol dire che se noi parliamo, noi abbiamo portato un atto per esempio per la regolarizzazione delle persone che stanno in questo momento sul territorio, che non hanno accesso a quelli che sono i diritti fondamentali, non hanno accesso a medici di base, non hanno accesso. Per l'emergenza, dicono a tutti di non andare direttamente agli ospedali pronto soccorso, ma di contattare prima il medico di base, e comunque ci sono altre patologie che delle persone potrebbero avere in questo momento, come ce l'avevano prima, non stiamo parlando solo di emergenza coronavirus, e non possono farlo, non hanno accesso a tutte quelle cose che vengono legate a uno status legale, anche solo come avere una residenza. E ci viene detto che questo è fondamentale. Dunque ci troviamo nella posizione dove stiamo un po' lì a quello che decide la maggioranza, e la maggioranza in questo momento, per senso, diciamo, di responsabilità, è composta dal Partito Democratico, ma anche dalle forze di destra, perché sono tutti convinti a dire andiamo avanti in nome della maggioranza senza fare, diciamo, troppe storie. Ecco. Ecco, poi andando alle questioni pratiche, che sono quelle che poi interessano di più i cittadini e le cittadine, abbiamo visto una proposta da parte di Firenze Città Aperta sul reperimento dei fondi che vengono giudicati attualmente, quelli stanziati vengono giudicati insufficienti, quindi è stata formulata una proposta, se la vuoi esporre. Sì, allora come abbiamo visto attualmente sia da parte del governo centrale che regionale sono stati qui per il Comune di Firenze sono stati stanziati e sono stati messi a disposizione di buone spese, pacchi alimentari e contributi affitto un totale di 3 milioni di euro, cioè 1 milione e 9 in buoni spesa che sappiamo sono già finiti, 100 mila euro in pacchi alimentari e 900 mila per quel che riguarda i contributi per l'affitto. Ora ci sono state varie dichiarazioni sia da parte del sindaco che attività tipo crowdfunding, che mozioni e risoluzioni che sono state presentate in consiglio e anche votate, dove chiediamo giustamente anche al governo centrale che venga, chiediamo noi come comune liquidità, cioè viene chiesto da quelli che hanno proposto questo atto e che è stato votato all'interno del Consiglio come altri atti, ma noi pensiamo che al momento possiamo anche fare, noi come comune possiamo provvedere a quelli che sono i bisogni primari e soprattutto in emergenza come questa non possiamo aspettare delle risposte dal governo centrale. E poi, visto che è vero che come stiamo dicendo noi al bilancio del Comune di Firenze c'erano questi 48 e quasi 49 milioni di euro che sarebbero dovuti entrare per quel che riguarda la tassa di soggiorno, no? Perché sappiamo che l'economia qui a Firenze è quasi tutta basata sul turismo, dunque la tassa di soggiorno doveva portare questi soldi che non sono entrati. A parte queste entrate che non ci sono state, però c'è stata anche una riduzione delle spese per gli uffici chiusi e altro, no? Per la pandemia. In più ci sono tutte le aziende partecipate, dove noi pensiamo nel dettaglio che possiamo, per esempio, da quel che riguarda Toscana Energia, che potrebbe rientrare sempre un'azienda partecipata del comune, stiamo parlando di 1 milione di euro. Poi invece ora ecco l'anticipazione dei canoni e degli utili da Publiacqua e Toscana Energia, la metà di queste sono tutte somme che dovrebbero entrare all'interno del comune e parliamo di 14.750.000, il fondo morosità di Publiacqua 300.000 e altro. Noi pensiamo che una percentuale di queste entrate potrebbero essere utilizzate non solo per quelli che sono i buoni spesa e il contributo affitto e anche i pacchi alimentari, ma possiamo andare anche verso una finanziare quello che sono anche il fondo bollette, che non è stato preso in considerazione perché non sappiamo se questa proroga, ora c'è una sospensione, no, della morosità se non paghi le bollette, ma non pensiamo che sia che arrivi fino alla fine dell'anno. Dunque avremmo pensato di stanziare 1 milione per i pacchi alimentari, 2,5 milioni per i buoni spesa, 200.000 per il fondo bollette, 200.000 è pari al 10% della riduzione delle spese che ci sono state per la pandemia, poi 2 milioni per il contributo affitti, anche questo è pari al 24% del risparmio degli interessi sui mutui. Perché laddove il sindaco Nardella ha tirato fuori la brillantissima idea di impegnare quelli che sono gli immobili pubblici, che noi sappiamo che non possono essere, cioè possono essere sì utilizzati dal comune, ma non assolutamente per finanziare la spesa corrente. Dunque, invece di impegnare quello che sono degli immobili pubblici, chiediamo invece che vengano resi quelle che sono la restituzione dei mutui che ha il comune, la percentuale che riguarda gli interessi che non vengono resi in questo momento. Dunque questo ci vorrebbe in realtà un'azione di coraggio, no? Dove il comune chiede di restituire il capitale e non gli interessi. E più o meno stiamo parlando di 8 milioni e 4. Una percentuale di questo, come si diceva, potrebbe essere utilizzato per andare incontro a quelli che sono i contributi affitti. Dunque da queste entrate che noi abbiamo quantificato in una percentuale di queste entrate, chiaramente non tutte le entrate che vengono al comune, in 6 milioni di euro pensiamo che potrebbero essere utilizzate per questo momento di emergenza, soprattutto per andare incontro, veramente abbiamo visto che un numero di famiglie in difficoltà altissime e purtroppo nonostante diciamo gli sforzi, perché a essere sinceri anche parlando così con i vari assessori e contattandoli ogni volta che ci vengono fatte delle richieste, gli assessori si stanno veramente dando da fare, dunque indipendentemente dal fatto che io sono all'opposizione, diciamo si vede che si stanno dando da fare, però non riescono ad arrivare a tutti. Dunque il dire che qui sta andando tutto bene e stiamo tutti a posto non è così, cioè lo vediamo tutti noi, ci sono tantissime persone che sono escluse, tante persone che si rivolgono al volontariato in tutti i quartieri, ci sono veramente tantissime famiglie che non riuscendo ad arrivare a quelli che sono gli aiuti del comune si rivolgono a associazioni di volontariato. E dunque noi pensiamo che il comune potrebbe avere la possibilità di fare la propria parte come è giusto che sia e anche mentre sta aspettando i fondi a livello governativo, a livello nazionale, senza impegnare immobili pubblici, quello è la cosa. Ecco, una delle cose che noi riteniamo prioritarie, a viste le conseguenze che ha avuto questo isolamento da un punto di vista sociale, a nostro modo di vedere veramente terrificanti sotto alcuni punti di vista, c'è stato un disgregamento dell'economia cittadina, ma anche delle relazioni sociali e dello stato di benessere delle persone, che come dicevi molte si sono trovate completamente abbandonate in situazioni già precarie e che quindi noi riteniamo ci debba essere un'attenzione particolare, soprattutto da un punto di vista sociale. E quindi si sta pensando a dei servizi di welfare per l'assistenza, per la cura, per la presa in carico di quelle situazioni di fragilità, sia da un punto di vista proprio sociale, relazionale, umano. Penso ad esempio alle molte persone con già fragilità derivanti da tossicodipendenza, da non avere una casa. I senza tetto, i cosiddetti invisibili, ma anche penso agli adolescenti, ai giovani fiorentini che ancora di più si trovano isolati da ciò che li circonda. C'è un'attenzione da parte del Consiglio, da parte dell'amministrazione comunale per questa fascia di persone? Allora, come avrai visto, purtroppo, come abbiamo notato tutti, c'è il divario che c'è tra chi era in qualche modo, chi riusciva a sopravvivere, chi era visibile e chi stava sempre entrando nella zona grigia è ancora di più andato ad aumentare. Dunque tutte queste situazioni che stai dicendo sono situazioni che per ora a livello anche nazionale non hanno ricevuto nessuna risposta, soprattutto non so se tu sicuramente avrai ascoltato anche l'ultimo discorso fatto dal Premier, ora anche a livello nazionale, dove non fa nemmeno menzione di niente di quel che riguarda il sociale che hai detto adesso, non parla delle scuole, non parla anche delle persone più fragili, perché a questo punto anche si diceva ieri in consiglio, ho fatto una comunicazione dove dal 4 di maggio andranno a lavorare milioni di persone e senza prendere in considerazione quelli che sono le persone più fragili, dunque una persona della famiglia che quasi sempre è la donna in generale, perché sarà la mamma, la sorella, la figlia o così, devono scegliere se poter tornare a lavorare o stare a casa a curare sia le persone più fragili nel senso di età, le persone che hanno oppure di età avanzata o anche le persone di età minore e qui sto anche parlando di persone che hanno la possibilità di andare a lavorare, mentre ci sono tantissimi che prima nemmeno lavoravano, che non vengono assolutamente presi in considerazione, vengono tagliati fuori, ci sono dei requisiti, come abbiamo visto anche nei buoni spesa, dei requisiti che sono a dir poco, a parte iniqui, ma ci sono sono stati fatti anche degli esposti contro questi requisiti di alcuni comuni, quasi tutti fra l'altro, il comune di Firenze è anche il comune con i buoni spesa dove non potevi accedere se non, perché ora sono finiti, però non potevi accedere se non avevi una residenza, se non avevi già un lavoro, dunque se stai in cassa integrazione, se riesci a dimostrare che hai avuto un peggioramento del lavoro. E niente, tutte queste fragilità si vede assolutamente che non sono in questo momento una priorità. Anche a livello del Comune di Firenze abbiamo visto, come stavo dicendo, le proposte che sono state fatte e che sono state accettate da portare all'interno del Consiglio Comunale non riguardavano, o perlomeno riguardavano sicuramente delle persone in difficoltà, ma erano tutte concentrate su qualche cosa che può anche essere giusto, ma non può essere solo quello, della ripresa dell'attività, del distanziamento sociale per poter ritornare al lavoro senza avere troppi problemi. Ecco. E non dal punto di vista stesso del lavoratore, perché ad esempio durante questo tavolo di confronto tra i vari capigruppo c'è stato quelli della Lega che vorrebbero non avere nemmeno il distanziamento sociale pari a zero, lo vorrebbero avere, dunque dicevo basta ci sia una mascherina, possiamo tutti tornare a lavorare. Dunque questo eccessivo stressare sul fatto che l'importante è quello di tornare a produrre. Non so se te ci hai fatto caso, anche quando una delle prime uscite fatte da Rossi sulla ripresa del lavoro, senza criminalizzare i lavoratori e le lavoratrici che chiaramente in qualsiasi settore devono lavorare, però le prime cose, la caratteristica degli yacht e la moda. Cioè anche questo ti fa capire che quel mercato lì non si ferma, cioè è vero che ci sono le persone che devono andare a lavorare, dunque ben venga se hanno la possibilità di aprire in sicurezza, che vadano a lavorare e che producano e che guadagnino in sicurezza, però come esempio che sia la caratteristica dello yacht e la moda, a me personalmente mi ha fatto senso, ecco, mi ha fatto tristezza, diciamo, più che senso. Ecco, se vediamo un estremo lassismo, diciamo, per quanto riguarda le questioni della produttività, la stessa cosa non possiamo dire per la libera circolazione sul territorio, anche su quello comunale, ecco. Molto spesso, perché abbiamo visto che non è quasi più possibile uscire da dei binari precostituiti, e cioè un'autocertificazione, la dichiarazione, dichiarare ufficialmente dove stiamo andando, cosa stiamo andando a fare. Quindi una grossa preoccupazione da parte di tante persone è quella proprio relativa alla libera associazione, cioè al fatto di poterti associare, di poterti avvicinare, di poterti ritrovare con persone senza dover stare a dire a nessuno che cosa si sta facendo. Giustificare, certo, e lì anche nell'ultima comunicazione non vediamo la fine né a livello nazionale né tantomeno regionale o comunale, di quando, non che non vediamo la fine, cioè non è stata indicata quando ci sarà la fine. Tra l'altro sempre in questa regione a livello comunale di tavoli era uscita fuori anche lì l'idea che il distanziamento sociale all'interno di un posto di lavoro poteva anche avere delle deroghe, perché dicono che uno può misurarsi la febbre e altro, mentre il distanziamento sociale all'aperto, vedi manifestazioni o altro, non si può fare, non può essere garantito, perché non si può sapere chi ha una temperatura più alta o meno. E allora anche lì campanellino d'allarme ancora più forte, questo campanello d'allarme dove dici ma assolutamente, cioè svegliamoci da quel punto di vista e cerchiamo di vedere come fare a contrastare al più presto, comunque come fare a non andare nella direzione di droni, di controlli, di non riuscire ad uscire. Abbiamo visto tutte le scene di alcuni ragazzi, se non sbaglio erano a Milano o forse a Torino, che stavano andando a una manifestazione e sono stati bloccati e ripresi, sono stati bloccati anche a livello violento dalle forze dell'ordine, e la risposta è che erano solo dei controlli anti-Covid. Cioè, questo penso sia preoccupante un po' per tutti, oltre anche a quello che abbiamo sentito che è partito da Firenze, se non sbaglio, delle lettere dei genitori per i figli, per i figli che non possono uscire o altro. Insomma, ci sono diverse questioni, anche chiaramente per quel che riguarda la libertà di espressione, la libertà di manifestare e tutto, che andrebbero poste e affrontate al più presto, ecco. Bene, allora noi naturalmente speriamo che le forze di opposizione siano ferme nel porre queste problematiche, magari neanche nel suggerire delle soluzioni. Con questo direi che ci possiamo fermare per ora e magari ci risentiamo in seguito. Grazie. Grazie a te, Antonella. Buonasera.